topic of our demo talk tonight is benefits of mindfulness practice, and there might be a part two later on, but I'm not quite sure. Quindi l'argomento del discorso di questa sera sono i benefici della pratica di consapevolezza. Potrebbe esserci ancora una parte aggiuntiva, ma non è ancora sicuro. Now, you may have realized or not that now we're about halfway through second part of the sandwich retreat. Potreste esservi accorti che a questo punto siamo più o meno a metà di questo ritiro sandwich, panino. Cioè il secondo periodo praticamente, no? Nel ritiro. We started the second 10-day period on the 9th of April, and today is the 14th. So it's exactly, if you count from the start of the retreat, from the first from the opening talk until now, it's about 5 days. So 5 more days to go. Quindi abbiamo cominciato questo secondo ritiro, seconda parte del ritiro il 9 di aprile, oggi è il 14, quindi se fatto il conto siamo esattamente a metà. Abbiamo fatto 5 giorni, ne dobbiamo fare ancora 5. No, when diligently applying the meditation instructions and observing the rising and falling movement of the abdomen again and again, observing other prominent objects as they occur in the body and in the mind, sometimes one might suddenly think, what am I really gaining from this? It's always the same. Allora, quando noi ci mettiamo diligentemente a seguire le istruzioni di pratica, osservare il nostro addome che si alza e si abbassa, a notare ogni fenomeno così come sorge sia nel corpo che nella mente, beh, potremmo a un certo punto chiederci, ma a che scopo sto facendo tutto ciò? Cioè, cosa ci guadagno? So, today's Dhamma talk is intended to make it really clear to you what those certain benefits are, at least some of them, and there are probably even more. Quindi lo scopo del discorso di questa sera è perché voi abbiate ben chiaro quali siano i benefici effettivamente, no, effettivi di questa pratica, almeno alcuni dei benefici, potrebbero essercene poi altri. No. You are, all of us are keeping the precepts since the very beginning of the retreat, and this thing already makes a difference. Quindi stiamo tutti rispettando i precetti dall'inizio del ritiro, e già questo fa una differenza. Now, you will remember some days ago, there was brief, at the beginning of the retreat, there was brief mention of the gradual progress of training, or gradual path of training that one usually takes. Se vi ricorderete, all'inizio del ritiro abbiamo parlato di questo sentiero graduale di addestramento che viene intrapreso da una persona. And suddenly that gradual path of training starts with a first hearing of the Dhamma. And that first hearing of the Dhamma will lead to the arising of some initial faith. That in turn will lead to the arising of right thought, such as a thought of renunciation, and that then in turn will prepare a person for the, or will prepare a person and will make a person willing to then take and observe the ethical precepts. E quindi l'inizio di questo sentiero, se vi ricorderete, era l'ascoltare gli insegnamenti, cioè ascoltare il Dhamma. Questo poi è seguito da una fede iniziale che a sua volta produce il retto pensiero, spesso questo pensiero riguarda pensieri di rinuncia, la disponibilità a rinunciare e andando avanti nel proprio sentiero, questo poi ci porta a impegnarci a rispettare i precetti. Quindi a impegnarci in una condotta etica, che sarebbe. No, if you compare your bodily and verbal conduct now with your bodily and verbal conduct prior to the retreat, then would you say it's exactly the same, or have you noticed a difference? Se voi doveste confrontare la vostra condotta fisica e mentale, diciamo, adesso, durante il ritiro, con quella prima del ritiro, voi direste che è esattamente uguale, la vostra condotta fisica, anche verbale, diciamo. Same or different? La stessa o diversa? Different. Okay. Anyone who agrees or disagrees? Different. So no. She says the same. No, Luisa. No, Martin. Differences are there, and indeed. In this, for some of you, 15-day period, for some of you, 5-day period, you will have at least not intentionally harmed any living beings, and at least intentionally you will not have taken anything that doesn't belong to you. You have not engaged in sexual misconduct, and you have not engaged in wrongful speech, and not engaging in taking intoxicating substances which should dilute the mind. Quindi sicuramente qualche differenza l'avrete notata, che voi abbiate fatto 5 o 15 giorni di ritiro, comunque in questo periodo non avete intenzionalmente fatto del male ad alcun essere vivente, non avete preso qualcosa che non fosse vostro, che non vi appartenesse, non avete svolto un'attività sessuale non corretta, avete usato un linguaggio, anzi, in realtà avete rispettato il silenzio, quindi non avete usato la parola sbagliata, e infine non avete assunto sostanze che potessero in qualche modo influenzare la mente negativamente, ottundere la mente. And so by now, when you think of your ethical conduct during these days of the retreat so far, do you think that this was really a waste of time or a waste of time and effort or not? Quindi ripensando alla vostra condotta etica in questo periodo di tempo in cui siete stati qua in ritiro, voi considerate che questo sia stato una perdita di tempo oppure no? Not. Okay. And so, then what is one of the benefits that comes from keeping the precepts for the time of the retreat? Quindi qual è uno dei benefici che deriva dal rispettare i precetti durante un ritiro? Experiencing something different. Experiencing something different, okay, sure. And then suddenly then is a contrast. Yeah. Contrast. Calms the mind. It calms the mind, yes. Quindi si sperimenta qualcosa di diverso, la mente si calma. What else? Observing change. What's that? Observing change. Observing change, in which sense? I mean, being aware of change. Of things changing. Essere consapevoli dei cambiamenti, le cose che cambiano. Yeah. It's conducive to mindfulness anyway. Ah, it's conducive to mindfulness, Milo says. Anything else? Porta alla consapevolezza, aiuta la consapevolezza. Purifying the body. It's purifying the mind and the body. Yes, indeed. Purifica la mente e il corpo. And Sadhana, so if you think of all the benefits that Sadhana you've mentioned, then do you regret this or are you quite happy about this? Quindi pensando a tutti questi benefici che avete menzionato, beh allora vi pentite di essere qui oppure siete contenti di essere qui? So, the Buddha states that when one reflects back on one's ethical conduct and realizes the purity there and calming of the mind and so on and so forth, that a so-called irreproachable happiness arises. A blameless happiness arises in the Pali scriptural language. This is known as Anavajja Sukha. Quindi Anavajja Sukha, comincio con il Pali, è un termine, se non lo dimentico, Sukha è felicità, quindi è una felicità che deriva dal non sentirsi in colpa, ecco, quindi senza macchia, diciamo così. E questo nasce, questo tipo di felicità deriva dal fatto di guardare indietro la propria condotta etica, no? Nel periodo in cui appunto uno per esempio è in un ritiro, quindi il fatto di riflettere sulla propria condotta etica che ha purificato la mente e l'ha calmata. No. You have also since the beginning of the retreat practiced what is known as restraint of the senses, indriya samvara sila, very specific to these training, very specific to these retreats. Quindi indriya samvara sila. Okay, comincio sempre dal Pali, è questo il controllo dei sensi, che è una cosa che abbiamo fatto dall'inizio di questo ritiro ed è una cosa tipica di questo tipo di addestramento mentale. No, again, let us evaluate that restraint of the senses and whether there's any benefit from it. Or not. Ecco, quindi adesso valutiamo l'effetto di questo controllo, questo limitare i sensi. Vediamo se anche questo porta dei benefici. So if you think of spending an entire day in downtown Milano and then you compare this to a day here at the retreat center at the Andi Ciliegi, then what difference do you see there? Quindi confrontate una giornata intera passata nel centro di Milano e una giornata qui al centro di ritiri Pian dei Ciliegi. Beh, che differenza c'è? Do you prefer the day in the center of Milano? Preferite la giornata nel centro di Milano? Overstimulation in Milano. Yes. In Milano ci sarebbe una sovrastimolazione, diciamo, dei sensi. Anything else? No silence in Milano. Mm-hmm. Yeah, ok, good. Non ci sarebbe il silenzio, c'è qui. Stimuli. Stimuli, a lot of stimuli in Milano, less here. Mm-hmm. I think it's kind of violent, the way you receive the stimulation in Milano, you're bombarded with it, you don't have a choice. Ah, and so do you then experience this as rather pleasant or highly unpleasant? Rather pleasant, most of the time it's pleasant, but very rarely. Quindi questa stimolazione che uno riceve nel centro di Milano è un po' aggressiva, violenta, quindi Dante ha chiesto ma è piacevole o spiacevole? Dice ovviamente più delle volte è spiacevole. Based on this restraint of the senses, after a few days of practice, not right away, retreatants usually experience this as positive, as helpful for practice. And the Buddha states the benefit of this restraint of the senses as an unblemished happiness, abhyasika sukha in the Pali scripture language. Quindi i praticanti hanno esperienza di questa, questi effetti positivi della, appunto, del controllo dei sensi, magari non subito, ma dopo qualche giorno di ritiro. E questo è proprio uno dei benefici a cui si riferisce il Buddha quando parla di questa felicità che deriva dall'essere senza colpa e senza, senza macchia, diciamo. Just a brief excursion. At times, some of our retreatants in Lumbini have to go to the nearby town in Baidwa, and then from there to the border border town in Bilahia in order to extend their visas. And this implies at least a 4-hour trip, sometimes more than this. And Baidwa is sort of quite a busy place. For the most part, these retreatants are so happy to be back at the center after having spent several hours in Baidwa. A Lumbini, dopo un certo periodo, i meditanti stranieri devono andare a rinnovare il visto in un paese di confine, in Nepal, che è una città così molto attiva e caotica, e di solito ci vuole un viaggio di 4 ore come minimo per andare e tornare. E quando questi meditanti tornano a Lumbini, di solito sono molto felici di essere tornati nella pace del, del centro, insomma, del monastero. Let us also take a brief look at some of the benefits that can be gained simply by practicing mindful contemplation of the body, Gaya Nupasana Satipatthana, in the Pali scriptural language. Adesso vediamo alcuni benefici che derivano dalla semplice osservazione della, delle sensazioni nel corpo, cioè di Gaya Nupasana. Now, usually as human beings, we think highly of our own body, especially when we're still young in age. Di solito noi come esseri umani abbiamo un'alta considerazione del nostro corpo, soprattutto quando siamo giovani. And certainly we might certainly consider it to be attractive. What the practice, mindfulness practice of the body does is to take a more realistic look at what is actually happening in the body. And with that then, we are, also become aware of the unattractive parts, and then with this our outlook towards the body, our relationship to the body becomes more balanced. Quindi abbiamo la tendenza a ritenere che il nostro corpo sia attraente. Beh, facendo questa attenta osservazione del corpo, noi vediamo che in realtà è composto anche di parti non così attraenti, e quindi vedendo entrambe queste cose ci permette di avere un rapporto un pochino più equilibrato con il nostro corpo stesso. No, mindful contemplation of the body may also help us to overcome the essential infatuation with our own body as well as with the body of others. E quindi questa attenta osservazione del corpo, che è più realistica, ci permette anche di superare questa infatuazione, si dice così, questa attrazione che abbiamo sensuale per il nostro corpo, così come per il corpo di altri. And with the mind being less occupied with infatuation, then it will be easier to develop concentration. E quindi con una mente meno occupata in queste infatuazione, allora sarà più facile sviluppare concentrazione. Now, apart from this, when we carefully observe what is going on in the body and in the mind, and then we realize there are just these physical and mental formations suddenly happening, and suddenly this suddenly then helps to disidentify from or to weaken the sense of the wrongful belief in a self. E quindi il fatto anche di vedere questi fenomeni fisici e mentali che semplicemente avvengono, sorgono e passano, ci aiuta a disidentificarci, quindi a indebolire un po' questo, questo senso del io, del, del sé. No, by oftentimes when we meditate, the mind goes off thinking about this or that, and going into unrelated issues. And if then patiently, every time it wanders off, we bring it back to the observation of some bodily formation, then this will help to tie down the wandering mind. E molto spesso nel, durante la nostra pratica la mente divaga, quindi scappa via in un certo senso. Il fatto di riportarla continuamente a un fenomeno fisico, un oggetto del corpo, ci aiuta in qualche modo a, come dire, a legarla, a far sì che non sia così facilmente, che non si allontani così facilmente da ciò che sta avvenendo. No. The same thing also applies to, the mind has a tendency to go to the various sense doors. So when some visible sight comes into near us, then we want to see. When a sound appears, we want to hear, and so on and so forth. And so, so mindful contemplation of the body will bring us back to the body again and again after the mind is going off to one of the sense doors. Un'altra tendenza della mente è quella di scappare, di andare verso le porte dei sensi, quindi arriva così un oggetto visivo e siamo attratti e vogliamo vederlo. Arriva un suono, di nuovo la mente va al suono per udire. Quindi questo sforzo che facciamo riportarci sempre alla sensazione del corpo ha questo vantaggio di appunto far sì che la mente non sia così portata fuori dal presente attraverso questa attrazione alle porte dei sensi. Now, if for instance we think of our work and suddenly some worries arise, or we imagine something that could happen in the future and then fear arises, then those two states, worry as well as fear, will be a difficulty. And if we then go back to mindful contemplation of the body, then this will help us to overcome or to withstand this attack by those mental defilements. Se un pensiero riguardo al lavoro ci porta preoccupazione nella mente, o un pensiero sul futuro porta paura, allora noi saremo in qualche modo coinvolti in questi stati mentali afflittivi. Il fatto di riportarci al corpo, alla contemplazione attenta del corpo, ci aiuterà a superare questi momenti di difficoltà. No, the mindful contemplation of the body, just like any of the other contemplations, helps to develop intuitive wisdom. Quindi questa attenta contemplazione del corpo, così come la contemplazione degli altri fondamenti della consapevolezza, aiuterà a sviluppare quello che chiamiamo questa saggezza intuitiva. And we shall talk about this in a moment or two. E tra un po' ne parleremo ancora di questo argomento. No. Intuitive wisdom is certainly different from wisdom, let's say, that is based on proverbs and traditions, and also different from the wisdom that is certainly attained from reading books. Quindi questa saggezza intuitiva è diversa da quella che può essere espressa da un proverbio o da una tradizione, ed è anche diversa dalla saggezza che può derivare dalla lettura di libri. So, in essence we can say wisdom is knowing things as they really are. Quindi essenzialmente possiamo dire che la saggezza è il conoscere le cose così come realmente sono. And the characteristic of wisdom is to penetrate the intrinsic or essential nature of an object, whatever the object might be. Quindi la caratteristica della saggezza è di penetrare la natura intrinseca e essenziale dell'oggetto, qualunque esso sia. And certainly its function is to illuminate, you know, the objective field, so, you know, the objects under observation. Quindi la funzione è quella di illuminare il campo, quindi illuminare l'oggetto che stiamo osservando. And certainly thus it dispels the darkness of ignorance. E quindi in questo modo è come se disperdesse l'oscurità che deriva dall'ignoranza. And so, you know, this intuitive wisdom then is manifested as non-delusion, as non-bewilderment. So we're not lost anymore. E quindi si manifesta questa saggezza intuitiva come il non, la non-illusione, il non-stupore. Cioè non siamo più persi, appunto, nella... We're not lost in ignorance. Bewilderment. Quindi non siamo persi in questo stato di stupore, di confusione, diciamo. Mm. No. As we undertake intensive mindfulness practice, changes occur and in many different ways, and one is that intuitive wisdom arises. Every time we know the nature, the qualities, the features of an object, we can say that this is a moment or two of intuitive wisdom. Quindi uno dei benefici di questa pratica di consapevolezza, diciamo, è proprio lo sviluppo di questa saggezza intuitiva. E questa saggezza intuitiva sorge ogni volta che noi possiamo dire di aver penetrato e di aver veramente compreso la vera natura, le vere caratteristiche di un oggetto che abbiamo osservato. No, that's just initial wisdom in general. And then after a few days of practice, the so-called intuitive insight knowledge in the Pali scriptural language known as jnana is likely to arise. Quindi c'è una sorta di saggezza iniziale, però poi con l'andare avanti della pratica è facile che possa sorgere quello che possiamo chiamare una conoscenza intuitiva, che nella lingua Pali si chiama jnana. No. When we start out our retreat by observing the precepts, restraining the senses, then we start observing the rising and falling movement of the abdomen and other objects, and in so doing gradually we learn to gradually we see differences in terms of sensations between the rising movement and the falling movement, and we also see how the rising and falling movement of the abdomen may be changing in the course of a sitting. Quindi cominciamo il ritiro rispettando i precetti e poi appunto limitando gli stimoli sensoriali, poi poniamo la nostra attenzione sull'addome, cominciamo ad osservare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome e gradualmente, un po' per volta, vediamo le differenze, per esempio le differenze tra l'alzarsi dell'addome e l'abbassarsi dell'addome, e cominciamo a vedere appunto che le sensazioni cambiano. No. Anche in una sola seduta. And certainly within already a day or two, we're likely to discover that there are not only physical phenomena such as the rising and falling movement of the abdomen, but there are also mental phenomena occurring. E quindi dopo un giorno o due di pratica cominciamo a vedere che non ci sono solo fenomeni fisici come l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, ma anche mentali. Mental phenomena such as the wandering mind, such as sloth and torpor, such as restlessness and remorse, skeptical doubt and ill will and sense desire. Quindi sorgono appunto, si notano questi stati mentali che possono essere per esempio il desiderio dei sensi, l'irrequietezza, la mente che divaga, la sonnolenza e il dubbio scettico. Aversione. E l'aversione. And then, since these mental states are arising, we have to deal with them. We have to observe them and overcome them. And so we learn already something right there. E quindi quando sorgono questi stati mentali, dobbiamo notarli, osservarli, conoscerli e superarli. E quindi già lì impariamo qualcosa. No, having overcome the hindrances, and this usually goes along with the strengthening of the mind, some different kind of mental states are likely to arise, and those suddenly sooner or later we realize are wholesome mental states, such as calmness and clarity of mind and happiness and so on. E quindi dopo aver affrontato questi, normalmente quelli che sono chiamati cinque ostacoli iniziali, di solito la mente si rinforza e questi stati afflittivi saranno sostituiti gradualmente da degli stati salutari della mente, tra cui per esempio la calma, la saggezza, Chiarezza. La chiarezza, la concentrazione, sono tutti questi stati positivi della mente. No, with this earlier on, you experienced the hindrances, which obviously are difficult mental states, and now you're experiencing a different set of mental states, which are more on the positive side, more wholesome, and they're referred to as beautiful mental states. With this thing, one realizes, oh, there are not only unwholesome mental states, but there are also wholesome mental states available. E quindi si passa da questa sperimentare degli stati mentali non salutari inizialmente a invece vedere che la mente può sviluppare stati mentali più salutari, che in qualche modo sono più positivi. E quindi si impara a riconoscere che la mente può effettivamente sviluppare diversi tipi di stati mentali. And so to some retreatants, especially new retreatants, if they so far have mostly experienced restlessness or agitation of the mind, and now through the practice they experience some calmness, this may come as a big surprise. Per alcuni meditanti, soprattutto quelli all'inizio, se hanno sperimentato molta irrequietezza, per esempio all'inizio di un ritiro, e poi questo si un po' per volta sparisce, viene sostituita da uno stato di calma nella mente, beh, questo può a questi meditanti sembrare una sorpresa, venire come una sorpresa. No, a retreatant will thus, by carefully observing what is, what exists within what we call a being or a self, will find certain two basic categories of objects, physical as well as mental objects, just those two categories. E quindi il praticante verrà a riconoscere che all'interno di quello che chiamiamo un essere, diciamo, l'essere umano, vedrà che ci sono solo fenomeni o fisici o mentali, solo queste due categorie. Now, when one keeps observing carefully with certain continuous mindfulness, then there may be at least periods when there's no sense of a self. There's just the respective object and the observing and knowing mind, and that's it. Poi col tempo si potrà fare un'esperienza che fa sì che uno nota che non c'è in realtà un sé che osserva o che fa l'esperienza, ma semplicemente il fenomeno che si presenta e la mente che lo osserva. And so with this thing, the question might arise, well, what about the self? Does it actually exist or not? Allora potrebbe sorgere la domanda, ma e allora il sé esiste o no? And so, with this suddenly then, the understanding might dawn, that in the end there is no self. And that with this the mind gets purified of this wrongful belief in itself. Quindi col tempo uno potrebbe accorgersi che in realtà non c'è un sé, e quindi la mente, così facendo, si purifica di questa errata visione, errata opinione dell'esistenza di un sé. And so, you know, with this, one realizes there are just these physical and mental, you know, phenomena, and you know, there's a certain interdependence between physical and you know, those mental phenomena. Quindi uno si accorge che ci sono solo fenomeni fisici e mentali, e che c'è un rapporto di interdipendenza tra i fenomeni fisici e mentali. Yeah, so you know, one you know, might realize how a pain in the body, you know, as the pain gets stronger and stronger, you know, sooner or later it may lead you know, to, well, maybe that's not such a good example. You know, one might see how you know, there's no bodily activity without a mental intention. Ecco, uno per esempio potrà accorgersi o vedere che non esiste nessuna attività fisica senza che ci sia un'intenzione nella mente. If there were only the body but no mind, then the body would be just a mass of flesh, that's all. Se ci fosse solo il corpo senza una mente, beh, il corpo sarebbe solo una massa di carne e basta. And if there were only the mind but no body, yeah, then nothing would happen, no activity would be there. Se ci fosse solo la mente ma non il corpo, beh, non succederebbe niente, non ci sarebbe nessuna attività. Now, those two, body and mind, material as well as mental phenomena, are dependent on one another. Quindi il corpo e la mente, cioè fenomeni fisici e mentali, dipendono uno dall'altro. And this the Visuddhimagga illustrates with a beautiful example, namely that of the stool crawling cripple and the blind. What? The stool crawling, or someone who is a cripple, who can't walk properly, and is holding onto a stool and is moving around like this. Okay. Il Visuddhimagga offre un esempio molto bello per esprimere questo rapporto tra corpo e mente, e parla di un disabile che non riesce a camminare e quindi si tiene ad uno sgabello per andare avanti. Okay. Yeah. The blind, ah, scusate, no, sorry, è un cieco. Yeah. Now, the blind person will not be able to reach a certain destination because he or she is not seeing properly. Quindi questa persona cieca non riuscirà a raggiungere una destinazione perché non ci vede. And that cripple will not be able to reach a particular destination because of physical affliction. Adesso traduco, poi forse non so se ho capito bene. Comunque invece la persona disabile non riuscirà a raggiungere la destinazione perché non riesce a camminare. Quindi sono due persone, il cieco e il disabile. Now, however, if both of these, the cripple and the blind, get together, and suddenly the cripple climbs. No, wait a minute. No, there we go. Yes, the blind climbs on the cripple. Exactly. Yes. Okay. You know, the blind climbs. Not the blind. The cripple climbs on the blind. The cripple climbs on the shoulders of the blind. Then they can both together reach their destination. Okay. Però se il cieco e questa persona che non riesce a camminare si mettono insieme, cioè il disabile si mette sulle spalle del cieco, allora insieme potranno raggiungere la destinazione, perché ovviamente il cieco darà le indicazioni. And then the cripple who has eyes to see with will say, okay, leave the left, take the right, and then the blind will move accordingly. E quindi la persona che ci vede ovviamente dalle spalle del cieco dirà gira a destra e non a sinistra, per dire, quindi andranno nella direzione giusta. Yeah. So that's the illustration given in the Visuddhimagga, and illustration for that interdependence of body and mind. Quindi questo è l'esempio che viene fornito nel Visuddhi Magga per spiegare questa interdipendenza tra il corpo e la mente. So, what are the benefits that we can derive from a few days of practice, and with the arising of this particular insight knowledge, are first of all to see there's just mind and matter, to see and that ultimately speaking there is no self. So with that, the view on the false view of the existence of a self gets purified from the mind. E quindi i benefici che possiamo avere da questa pratica e da questa intuizione, diciamo, è del vedere che esiste nel corpo solo, appunto, esistono solo fenomeni fisici e mentali, e poi del vedere che non esiste un sé agente, diciamo così, e quindi la mente in questo modo diventa ancora più purificata. And so, because the mind suddenly gets suddenly purified, this particular phase in the practice then is also referred to as purification of view, citta visuddhi, diti visuddhi in the Pali scriptural language. E quindi questa fase nella pratica, proprio perché la mente diventa purificata, questa fase si chiama la purificazione della visione, cioè del modo di vedere, e nella lingua Pali è diti visuddhi. Now, this may at first appear like not a really, or not like like very substantial benefits, but this particular purification of you and insight knowledge is setting the foundation or building the foundation for what will follow later on. Quindi potrebbe sembrare così abbastanza irrilevante questa comprensione, diciamo, ma in realtà questa purificazione della visione, questa conoscenza dell'insight, è quello che pone le basi e permette il sorgere di quelle successive. And in terms of terminology, this particular phase or wisdom is also known as the knowledge of discerning mind and matter. Per quanto riguarda la terminologia, questa fase della pratica è anche detta il discernere tra la materialità e la mentalità, quindi gli aspetti materiali e gli aspetti mentali. Now, as pointed at already earlier on in the practice, difficult mental states come up, positive mental states come up, and with this a retreatant then also starts to see the difference between wholesome and unwholesome, kusala and akusala. Come abbiamo già detto, il meditante fa esperienza sia di stati mentali salutari che non salutari, e quindi questa è un'altra conoscenza che avviene durante la pratica, riconoscere appunto queste due categorie di stati che sono kusala e akusala, no, nella lingua Pali. One could add yet another benefit, and that of gradually coming to know the intentions. Un altro beneficio che possiamo aggiungere è quello che gradualmente si viene a conoscere le intenzioni. So, mental intentions that precede an activity, the intention to open a door, the intention to close a door, the intention to start walking, and so on and so forth. Quindi tutte quelle intenzioni mentali che precedono un'azione, per esempio aprire una porta o chiuderla o alzarsi e camminare e così via. Now, outside of a retreat, this is not so obvious, especially not for people who've never meditated before. Fuori da un ritiro questo non è molto ovvio, soprattutto per persone che non hanno mai meditato. Now, gradually becoming aware of these intentions, then brings a certain freedom from this compulsion to act on each and every intention that comes up in the mind. E quindi il fatto di conoscere questo rapporto tra l'intenzione e poi l'azione che segue ha come beneficio, come risultato, una sorta di libertà da questo, da questa compulsione che abbiamo di rispondere ad ogni intenzione che sorge nella mente. So, let's say, outside of a retreat, if two people get into a fight, then very quickly the intention might arise to lash out at the other person. Per esempio, fuori da un ritiro, se due persone cominciano a litigare, allora molto facilmente sorgerà l'intenzione di, come dire, attaccare l'altro. And as a retreatant in a similar situation, one will be aware of the intention arising in the mind, intention to, you say, leash out, no? To leash out. And suddenly then one will realize, okay, this is an unwholesome intention, and then will refrain from actually doing something. Invece, come praticante in una situazione analoga, uno sarà consapevole di questa questo impulso a, come dire, attivarsi, diciamo, a attaccare l'altro, riuscirà quindi a frenarsi prima di mettere in atto l'intenzione in qualche modo. Now, when we continue with our intensive mindfulness practice, then we will again observe prominent physical as well as certain mental formations, and gradually our understanding of what is happening in the body and the mind will deepen further. And we will then notice that those physical and mental phenomena that were observed already at the beginning of a retreat are connected in a certain way. Quindi poi col procedere della pratica, continuando a osservare attentamente i fenomeni fisici e mentali che si presentano, la pratica si approfondisce sempre di più, e allora si noterà come questi fenomeni fisici e mentali sono in relazione in modo particolare, ecco, hanno modi particolari di mettersi in relazione. And suddenly we might realize how a mental intention leads to a physical result, such as the intention to open a door, and this then is followed by the activity of opening the door. E poi vedremo chiaramente come un'intenzione nella mente produce poi un'azione fisica. Per esempio, vedremo l'intenzione di aprire una porta e poi l'azione dell'aprire la porta. Or it could certainly be that certainly maybe a pain arises in the body, becomes pretty unbearable, and sooner or later some aversion arises towards the pain. Then we have a connection between the intensifying pain and certainly the arising of aversion. Oppure sorge un dolore nel corpo, diventa sempre più forte, e vediamo come sorge in noi l'avversione verso questo dolore. Quindi di nuovo c'è il rapporto tra il dolore e la sensazione fisica e uno stato mentale, l'avversione. So if we look at all these body mind relations, then we can divide them in, or then they fall into four basic categories. And those four basic categories are a mental object conditioning or leading to the arising of a physical object being the condition for the arising of a mental phenomenon, and a mental phenomenon can be the cause for a different mental phenomenon, and a physical phenomenon can be the cause for the arising of a different physical phenomenon. Quindi osservando sempre meglio queste relazioni tra i diversi fenomeni, vediamo che rientrano in quattro categorie. Ci può essere un fenomeno fisico che influenza un fenomeno mentale che influenza il fenomeno fisico, o un fenomeno fisico che influenza un altro fenomeno fisico, un fenomeno mentale che porta ad un altro fenomeno mentale. Now, without certain meditation practice, or with only very little meditation practice, we may think that it is owing to some supreme being, or owing to coincidence that something is happening. Senza una pratica meditativa, con poca pratica meditativa, noi potremmo pensare che le cose accadano in virtù di un essere supremo, oppure che siano del tutto casuali. And so, this is basically a wrong view. E questo è fondamentalmente un modo errato di vedere. And so, when we carefully observe these physical and mental phenomena and see how they are related by cause and effect, then eventually we will realize that certain things do not happen by coincidence, and we will also realize that there is no supreme being behind the show that is controlling everything. E quindi, dopo aver visto ripetutamente queste relazioni, questi rapporti di causa-effetto nei fenomeni, ci rendiamo conto che appunto le cose non capitano per caso, e anche superiamo questa idea errata del fatto che ci sia un essere supremo che in qualche modo controlli ciò che avviene. No, this particular understanding or insight is known as purification of by overcoming doubt. E questa particolare conoscenza, diciamo, questa fase della pratica, si chiama la conoscenza che deriva dal superamento del dubbio. And as an inside knowledge, it is also known as the knowledge that discerns cause and effect. E come conoscenza dell'insight è anche conosciuta come quella che discerne tra la causa e l'effetto. Now, when it comes to modern sciences, it is obvious that certain things are happening by way of cause and effect. This is what scientists find all the time. Per quanto riguarda le scienze moderne, è abbastanza ovvio che le cose accadono proprio in virtù di rapporti di causa effetto. Gli scienziati lo scoprono continuamente. And so, when we do the practice ourselves, and when we do, as Sayadaw Pandita at times says, do self-research, then we realize the same thing is happening. There's just these causal relations not happening between mental and physical phenomena. E quando noi facciamo questa sorta di ricerca autonoma, interiore, come dice Sayadaw Pandita, noi scopriamo la stessa cosa, cioè che ci sono solo dei fenomeni che sono governati da queste leggi di causa-effetto. Now, the first inside knowledge and second inside knowledge, both of these are still pretty pretty simple in terms of understanding, but they're really important because they build the foundation for what happens or what comes later on. Quindi queste prime due cosiddette conoscenze dell'insight sembrano abbastanza semplici, ma sono fondamentali perché pongono proprio le basi per quello che poi succederà successivamente. Now, when you do the practice and you then see all those many benefits, then what will happen to your faith? Will it go down or will it go up? Quindi quando voi andate avanti con la pratica e verificate tutti questi benefici, allora che effetto avrà questo sulla vostra fede o fiducia? Andrà su o andrà giù? Su. That's it. And certainly, when a retreatant has clear-cut experiences, and these experiences then even tally with what is mentioned in the text, then obviously faith in the practice will increase. Quindi quando un praticante, un meditante ha delle chiare esperienze e queste esperienze poi in qualche modo vengono confrontate e paragonate con quello che dicono i testi, allora sicuramente la sua fede aumenterà. No, it can be said that with every arising, with every gaining of a new insight knowledge, one's faith will get strengthened, so it will get stronger just a bit more. Quindi si può dire che ad ogni nuova conoscenza di un insight, diciamo di un'intuizione profonda, la propria fede diventerà sempre più forte, anche solo di un po'. Faith by itself, especially before engaging intensive mindfulness practice, it is for the most part pretty weak and also pretty shaky. La fede da sola, soprattutto prima di intraprendere una pratica di meditazione intensiva, è di solito un po' debole e soprattutto è un po' instabile. No. The arising of the strengthening of faith then has some further consequences, namely that it will lead a retreatant to wanting to or desiring to practice more. E quindi questo rafforzamento della fede ha un'altra conseguenza, che è quello di far sì che il meditante voglia praticare di più. And in Satna then one might have thoughts such as, well, if with this much practice I've gained the following benefits, then if I exert myself a bit more, then most likely I'll gain even more benefits, and with this sudden exertion of effort will take place. Quindi un meditante potrebbe considerare, beh, se con questa questo po' di pratica che ho fatto ho ricevuto questi benefici, beh, se io approfondisco ancora di più, vado ancora più a fondo, beh, avrò ancora maggiori benefici, e con questo il proprio sforzo sarà in qualche modo sostenuto, ecco. And certainly by again and again propelling one's mind towards the prominent object of observation, whereby this suddenly then gradually mindfulness arises and becomes more important and continuous. Quindi con lo sforzo la mente viene, come dire, spinta sempre più sempre più ripetutamente sull'oggetto, e quindi la consapevolezza si sviluppa sempre di più. And suddenly then with mindfulness becoming more sustained, then the mind will fall onto an object squarely, the mind will be glued to the object, sticking to the object, and with this suddenly then the mind becomes unified, in other words suddenly concentrated. Quindi con questo maggiore sviluppo della consapevolezza la mente in qualche modo sarà sempre più aderente al suo oggetto, sarà unificata al suo oggetto, e conseguentemente ci sarà lo sviluppo della concentrazione. When the mind is quite or becomes quite concentrated and is free from distractions, then intuitive wisdom can arise, and this is what is actually happening. Quindi quando la mente è concentrata, allora è libera dalle distrazioni, ed è in queste condizioni che sorgono queste conoscenze, questa saggezza intuitiva, ed è proprio quello che sta succedendo. So to summarize, with just a few days of intensive practice, 5 days of practice, we can state a number of benefits and or improvements. Quindi per riassumere, con soli 5 giorni di ritiro possiamo già in qualche modo elencare determinati o vedere sono determinati benefici della pratica o dei miglioramenti. So our ethical conduct will improve, our concentration will improve, our wisdom will also improve. The mind will become more and more purified. Quindi migliorerà il nostro comportamento etico, migliorerà la nostra concentrazione, migliorerà la nostra saggezza, quindi in altre parole la nostra mente sarà sempre più purificata. We will be more restrained in our conduct, and then, as explained early on, happiness will arise just based on the purity of our ethical conduct and based on the restraint of the senses. Quindi i nostri sensi saranno limitati, controllati, e come abbiamo già detto prima, questo porterà a una felicità che deriva proprio da questa purificazione legata al controllo dei sensi. and suddenly also our faith increases, our mindfulness gets stronger, our effort improves, and so on and so forth. Poi aumenta la nostra consapevolezza, la nostra concentrazione, la fede diventa più forte, anche lo sforzo è più sostenuto, e così via. And so we might even say that our degree of patience improves a bit. E possiamo anche dire che il nostro grado di pazienza migliora un pochino. And we could further say that overall the mind becomes just a bit more centered, balanced. Possiamo dire comunque in generale che la mente diventa più centrata, più equilibrata. Okay, let me conclude today's Dhamma talk by wishing, having gained these and many other benefits within just certain, for some of you, 15 days of practice, others 5 days of practice, may you be inspired, may you realize that this practice is really beneficial, and may it move you to go on with your practice, and certainly in order to gain further benefits. E quindi concluderò questo discorso di Dhamma con l'augurio che attraverso la il riconoscere, diciamo, i benefici che vi ha portato questa pratica, anche in solo 5 giorni o 15 a seconda, bene, che questo possa ispirarvi, possa spingervi a continuare ancora di più con maggior sforzo nella vostra pratica per avere ancora di più benefici, ancora più benefici. And that's it. Sadhu, sadhu, sadhu.